Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un film già visto, la trama è la seguente: il costo delle bollette schizza a causa di un boom del fotovoltaico. Il governo prospetta un nuovo conto energia per ridimensionare gli incentivi. Il settore a quel punto si rivolta, facendo balenare il rischio che tutto vada a rotoli. Il nuovo conto energia a quel punto viene addolcito e subito parte una nuova bolla fotovoltaica che fa schizzare le bollette e si ricomincia da capo. Questo film rischia di andare in onda per la terza volta, perché siamo già a metà strada. Con l'ultimo rincaro del 10% annunciato dall'autorità, le rinnovabili elettriche, tra incentivi e costi indiretti, quelli di rete, centrali elettriche di backup e così via, è arrivato a costituire circa il 20% della bolletta degli italiani, quelli che pagano gli oneri e tutto. Poi ci sono i grandi consumatori che non pagano buona parte di questi oneri. Il fotovoltaico da solo assorbe più della metà di questi costi. Parliamo di 6 miliardi di soli incentivi destinati, tra l'altro, a salire nei prossimi anni. Si preannunciano perciò ulteriori rincari, e questo per produrre finora il 3%, con questi 6 miliardi, il 3% del nostro fabbisogno energetico. Il governo a questo punto si è messo a parlare di un nuovo conto energia, il quinto tra l'altro in pochi anni, che non piace per nulla al mondo del fotovoltaico, il quale naturalmente ha un altro punto di vista. Dice: esagerati o no che fossero, gli incentivi hanno dato vita a un'industria con alcuni anche punti di indiscutibile valore che andrebbero salvaguardati, per esempio nel settore degli inverter c'è un'industria molto forte. E naturalmente ci sono i posti di lavoro, le associazioni parlano di oltre 100.000 addetti tra impiegati diretti e indiretti. Per parlare di tutto questo, dopo aver avuto ospite l'autorità per l'energia, stasera abbiamo Valerio Natalizia, che è presidente del GIFI ANI, e GIFI sta per Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane. Buonasera Natalizia. Buonasera a lei. Allora, primo punto, la bolletta, io credo che lei sia d'accordo con me, non può salire oltre. Allora, la domanda quindi è: come si fa a conciliare questa, che dovrebbe essere addirittura in teoria una riduzione delle bollette, con un ulteriore sviluppo delle rinnovabili? Dico rinnovabili perché c'è da ricordare che c'è tutto il settore delle rinnovabili termiche da sviluppare, c'è l'efficienza energetica da sviluppare, e che però finora hanno ricevuto le briciole, proprio 100 volte meno, qualcosa del genere. Allora, come si fa a mettere insieme tutto questo? Ma allora, io partirei da un dato importante. Ad oggi, parliamo delle famiglie, gli oneri generali di sistema, che sono appunto la voce all'interno della quale è prevista anche la voce della 3, occupano il 13%, e di questo 13% all'interno degli oneri di sistema le rinnovabili hanno un peso molto importante. Beh, su 10 miliardi e mezzo sono circa 9. Sono 9,4 miliardi sono sul totale. Comunque sì, ci sono delle altre voci che sono incluse all'interno della bolletta elettrica, che chiaramente non hanno a che fare con l'energia. I famosi oneri impropri, sì, come lo smaltimento delle centrali nucleari. Il nucleare, sì, il decommissioning delle centrali nucleari, ci sono sconti concessi anche alle grandi industrie energivore, c'è una voce anche che riguarda le ferrovie. Però detto questo, sicuramente il dato sulla bolletta che lei citava è significativo, e bisogna evitare che l'impatto si ripercuota in termini negativi sulla bolletta degli italiani. E la cosa assurda, sa qual è? Che, come dimostrato da alcuni studi anche sviluppati ultimamente in Italia, ma in altri paesi come la Germania, in Belgio, l'effetto della produzione della energia fotovoltaica garantirebbe, e alcuni studi lo dimostrano già, una diminuzione del prezzo dell'energia elettrica, certo, soprattutto dovuto al peak shaving o quelli che... Ne abbiamo parlato proprio lunedì, circa mezzo miliardo è stato calcolato in Italia, ma che appunto va confrontato con un costo di 6 miliardi all'anno di incentivi, quindi... Ecco, però volevo prego, arrivare, mi scusi, alla conclusione che dobbiamo cercare di integrare le energie rinnovabili all'interno di una rete elettrica che va ripensata, e quindi non si può dare la colpa al fotovoltaico piuttosto che alle rinnovabili per un aumento del costo della bolletta, quando probabilmente una rete diversa, e quindi moderna e adattata anche a quello che è ormai un trend inarrestabile, cioè quello dello sviluppo di queste fonti, potrebbe dare molti più vantaggi. Ecco, però insomma è un'esigenza questa di sviluppo della rete, che comunque deriva dalle rinnovabili elettriche non programmabili come sole e vento, cioè. Sì, è un effetto, ma dovremmo essere bravi a sfruttare quelli che sono i vantaggi e non a vedere questo come un costo ulteriore, lei dice. Aggravio. E poi sui costi, perché si parla purtroppo sempre solo dei costi, c'è uno studio proprio pubblicato da pochissimi giorni, che è anche apparso sui principali quotidiani italiani, che dimostra come poi facendo il confronto tra benefici e costi, alla fine il risultato sia positivo, con addirittura le rinnovabili che porterebbero da qui al 2030 un risparmio per circa 37 miliardi di euro in 20 anni. Quindi, considerando tutti i costi, considerando tutti i benefici, ci sarebbe comunque un vantaggio. Per esempio, per il costo della CO2 non prodotta, che adesso verrà monetizzato sempre di più, eccetera, eccetera. Però è un fatto sicuramente molto positivo che ci siano dei benefici, ma al di là di questo c'è un problema, come dire, di confronto che io credo dovremmo fare fra il fotovoltaico e le alternative. Mi spiace fare questo confronto, ma oggi è proprio, come dire, il finanziamento che costringe a fare questo confronto, perché più del 50% delle risorse sono oggi sul fotovoltaico e, diciamo, buona parte di quello che avanza è sull'eolico. Ecco, tutto il resto, le rinnovabili termiche, l'efficienza energetica su cui abbiamo speso mezzo miliardo in 5-6 anni, quindi 100 volte di meno, non rischiano di essere schiacciati dal fotovoltaico? A questo punto le dico, che tipo di sviluppo avete in mente per il vostro settore, se deve convivere con gli altri e non finire per far esplodere le bollette? Ma allora, proprio in questi giorni saranno pubblicati i decreti, appunto uno sarà probabilmente sul quinto conto energia, l'altro sarà sulle altre rinnovabili termiche ed elettriche ad esclusione del fotovoltaico, e saranno stanziati probabilmente 5,5 miliardi di euro a sostegno proprio di queste altre fonti, e quindi per dire che probabilmente si è fatto prima per il fotovoltaico, ma adesso ci saranno tanti soldi per le altre per fonti. Per tutti gli altri messi assieme un'analoga cifra. Natalizia, però adesso ci dobbiamo fermare, ci risentiamo domani per continuare la nostra conversazione. Buonasera anche a tutti voi ascoltatori. A domani.